Respiro. Buongiorno ascoltatori, bentornati a Respiro, io sono Cristina Carpinelli. Questa settimana parliamo di cambiamenti climatici perché proprio la lotta ai cambiamenti climatici e la conservazione della biodiversità sono stati i temi principali del vertice dei ministri dell'ambiente che si è tenuto a Siracusa dal 22 al 24 aprile. Ovviamente si trattava di un incontro a cui hanno partecipato tutti per sostenere, almeno formalmente, i temi trattati all'interno di questo vertice. Questo quanto ha spiegato il nostro ministro all'ambiente Prestigiacomo. Sono particolarmente felice che da Siracusa in tema di biodiversità parta un messaggio fortissimo, che è quello contenuto nella carta di Siracusa, che ha visto la condivisione di tutti i ministri. Devo dire, devo anche ringraziare tutti i ministri e le delegazioni che hanno lavorato in questi due giorni con grandissimo entusiasmo, perché tutti ci siamo convinti di sottoporre ai nostri di governo e di far condividere a tutti i ministri l'urgenza di intervenire a salvaguardia della biodiversità. Dicevamo che c'erano tutti i ministri dell'ambiente europeo, degli Stati Uniti, di Cina, di India, di un buon numero di stati africani e quelli dei paesi emergenti. Insomma, il solito. Due giorni di incontri, eventi, manifestazioni che si sono concluse con l'adozione di una carta, la carta di Siracusa sulla biodiversità, cioè una sorta di memorandum su quanto sarà necessario fare dopo il 2010. Il problema è che, e sarebbe buffo se non fosse tragico, è che siamo molto indietro ancora sul raggiungimento dei paletti di Kyoto. Dobbiamo fare grandi passi e muoverci insieme, perché i cambiamenti climatici e la biodiversità sono temi strettamente collegati. Questo è quanto ha detto il ministro della Repubblica Ceca Martin Bursik, che sentiamo in questo momento. Bursik ha detto: la perdita di biodiversità incide sulla carenza di cibo e acqua e dunque è urgente prendere decisioni in merito. Incontri come questo servono ad aprire tavoli di discussione, impostare lavori, ma anche e soprattutto servono a stringere accordi bilaterali. Dobbiamo fare in modo, sta continuando a spiegare il ministro della Repubblica Ceca, il ministro dell'Ambiente della Repubblica Ceca Bursik, dobbiamo fare in modo che siano sempre più paesi a seguire l'esempio dell'Unione Europea, cioè di impegnarsi a raggiungere entro il 2020 una riduzione del 30% delle emissioni. E questo, dunque, diceva in una scarna conferenza stampa il ministro all'ambiente della Repubblica Ceca. E intanto si firmavano accordi bilaterali, appunto. L'Italia ha siglato un'intesa, ad esempio, con l'Australia, come ha spiegato il nostro ministro Prestigiacomo. Un accordo di collaborazione che riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Come sapete, il nostro G8 dedica una parte importante alla discussione del ruolo delle tecnologie nei cambiamenti climatici. Una delle principali tecnologie è proprio quella della cattura e dello stoccaggio della CO2. E io voglio ringraziare il collega Tony Burke, il collega australiano, per l'iniziativa da parte del suo governo di creare un istituto che possa affrontare a livello globale tutte le tematiche relative alla cattura e allo stoccaggio della CO2. La novità di questa iniziativa, di questo istituto, sta nel fatto che questa è una collaborazione non solo tra istituzioni pubbliche, ma tra pubblico e privato. In ogni caso, dalla carta di Siracusa firmata nei giorni del G8 emergono questi punti principali. La biodiversità è essenziale per la vita sulla Terra, per il benessere dell'umanità e per il conseguimento di tutti gli obiettivi del millennio. Che la biodiversità e gli ecosistemi hanno un grande valore economico e possono contribuire in maniera importante alla risoluzione dell'attuale crisi economica e finanziaria. E poi che è urgente identificare un percorso comune che ci conduca a nuovi obiettivi. Parole, verrebbe da dire, ma pochi, piccoli passi avanti. Sulle tecnologie, punti essenziali riguardano i pacchetti di stimolo, di ripresa, con spese pubbliche, investimenti per una produzione, un utilizzo più efficiente dell'energia, in modo da affrontare sia lo sviluppo economico che la riduzione delle emissioni. E poi, ancora, questo quanto emerge dalla carta di Siracusa, incrementare gli investimenti pubblico-privati per la ricerca, diffondere l'accesso all'energia da parte delle popolazioni più povere. Alcuni ministri poi hanno parlato anche del ruolo che dovrebbe avere l'energia nucleare, ma la discussione è rimasta per ora solo così accennata. Sulle azioni per contrastare i cambiamenti climatici, i punti toccati riguardano i target nel breve e medio periodo e a lungo termine, quindi la confrontabilità degli sforzi tra i paesi, i finanziamenti, la governance internazionale. L'obiettivo del G8 sull'ambiente di Siracusa era quello dunque di lanciare un messaggio politico sulla biodiversità e sul rapporto tra salute e ambiente e facilitare il dialogo sul tema dei cambiamenti climatici in vista anche della conferenza di Copenaghen che si terrà a dicembre e che a quel punto dovrà definire gli assetti globali del post-Kyoto. E però bisognerà darsi ben da fare perché i cambiamenti climatici avranno un costo molto alto e lo pagheremo noi anche dal punto di vista economico e purtroppo l'Italia non si sta muovendo, come ci racconta Carlo Carraro, professore di economia ambientale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, che sul tema ha scritto un approfondito saggio. L'Italia non si sta muovendo perché è uno dei paesi che non ha ancora adottato il piano nazionale per l'adattamento che è stato richiesto anche dalla Commissione europea e che altri paesi europei hanno già realizzato, cito la Spagna, la Francia ad esempio, senza contare i paesi del nord Europa. Credo che dovremmo comunque muoverci in Italia perché la nostra situazione è particolarmente fragile, è un territorio vulnerabile sia a livello di coste sia a livello di zone montane, a maggior ragione in vista dei cambiamenti climatici dovremmo dotarci di strumenti di protezione, salvaguardia, di previsione e anticipazione dei fenomeni in modo da ridurre questo livello di vulnerabilità di cui abbiamo adesso parlato. Le conseguenze possono essere assai importanti, non nel breve periodo, non si tratta di essere adesso catastrofisti sul fatto che ci saranno impatti gravissimi nei prossimi 10 o 15 anni, però effettivamente progressivamente e lentamente la situazione peggiorerà e dovremo far fronte a situazioni in termini di eventi estremi più frequenti, che vuol dire piovosità intense nella stagione autunnale piuttosto che situazioni di siccità nella stagione estiva che saranno sempre più rilevanti e dovremo avere gli strumenti per fare fronte a questo tipo di situazioni, strumenti di programmazione del territorio innanzitutto, di programmazione delle infrastrutture, di gestione dell'emergenza che in Italia ovviamente sono necessarie comunque e ripeto saranno sempre più necessarie a fronte dei cambiamenti climatici. Anche perché se non si fanno poi il costo anche dal punto di vista economico, lei ne parla all'interno del suo libro, sarà elevatissimo. Sì, noi siamo dei costi che possono essere, costi dell'inazione, del non intervento, che possono essere all'incirca dell'ordine dell'1% del prodotto interno lordo. Però l'1%, se valutato in termini di miliardi di euro da spendere a questo tipo di iniziativa, di danno diciamo da cambiamento climatico, sono tantissimi soldi. Se possiamo evitare con degli interventi che costano circa un decimo del costo dell'impatto del cambiamento climatico, è ovvio che conviene intervenire e fare, quindi dotarsi di un piano per l'adattamento ha una duplice valenza. Da un lato è un intervento che dovremmo comunque fare per ridurre la vulnerabilità del territorio e dall'altro ha un costo largamente inferiore di quello che sarebbe l'impatto del cambiamento climatico se non facessimo questo tipo di interventi. E dunque c'è davvero molto da fare, ma ogni volta, e questa la sensazione l'abbiamo un po' tutti, che si parla di ambiente all'interno di incontri come il G8 di Siracusa, la sensazione, dicevamo, che si ha è proprio quella che ci descrive Dario Ceccarelli. Che bello! Mercoledì abbiamo festeggiato la giornata della Terra. Concerti, sfilate, parole forti e impegni solenni. Lo facciamo dal 1970 e ogni volta ci sentiamo meglio, anche se tutto va peggio. Anzi no, quest'anno va meglio, ma solo perché, grazie alla recessione, inquiniamo meno. Meno fabbriche, meno auto, meno aerei in volo, tagli ai consumi e alle emissioni di CO2. Ma non è questo il punto, anche se dovrebbe far riflettere che solo frenando lo sviluppo si riduce anche la febbre al malato terra. Il punto è che noi occidentali, sensibili al problema, siamo bravissimi a lavarci la coscienza, andando al concerto, al film, alla conferenza, ma solo una volta all'anno. Poi tutto come prima,

sono due facce della stessa medaglia. Se non si attrezza in quella direzione non c'è sviluppo economico. Io sono convinto che con un po' di lungimiranza, di attenzione, con un leggero costo addizionale si riesca nei prossimi anni a pensare a uno sviluppo dell'Italia, in particolare dell'Italia meridionale, compatibile con il cambiamento climatico in corso. In chiusura di questa intervista alcune notizie relative al territorio italiano. L'Italia è pronta a seguire la Commissione europea nella nuova proposta che punta a ridisegnare la mappa delle aree agricole sfavorite in Europa a causa di handicap naturali. L'obiettivo è ottenere una distribuzione più equa e mirata degli aiuti europei agli agricoltori che si impegnano a tutelare il territorio, il paesaggio, l'ambiente in zone sfavorite che non sono né la montagna né le isole. Entro gennaio ogni paese dovrà presentare le simulazioni realizzate sulla base di questi criteri. E ora invece vediamo un po' di notizie di progetti e iniziative partite negli ultimi giorni che potrebbero interessarvi. Arriva in rete ad esempio il sito lamiaaria.it. Si tratta di un sito in cui sarà online la situazione legata alla qualità dell'aria di tutti gli 8100 comuni italiani. Il servizio è gratuito e offre previsioni per 5 giorni della qualità dell'aria. Invece si concluderà il 27 aprile, ma si è aperto il 22, il Salone del Mobile a Milano. Anche quest'anno si parla di design e ambiente. Allora noi siamo andati a vedere con Lara Vecchio quali sono gli spunti che si possono trovare andando in giro per il Salone del Mobile. Il basso consumo, il risparmio energetico, il minor livello di inquinamento, anche luminoso, scelte etiche e responsabili. Ma questa è una storia completamente diversa. È la storia di Pulsar, che nasce da una costola dell'azienda brianzola Artistica Lampadari, e ce la racconta l'imprenditore Mauro Santisi. Abbiamo pensato di evolvere e cambiare la produzione in prodotti volti al risparmio energetico, tutto LED, con l'utilizzo di vecchi materiali come la ceramica, che insieme fanno dei belli oggetti di design. Abbiamo preso uno studio di architettura, uno studio di architetti, che insieme, in collaborazione, abbiamo disegnato queste lampade e stanno avendo un buon riscontro. È costato un sacrificio, che nel momento di crisi eravamo di fronte ad una scelta, se chiudere o innovare. E abbiamo scelto di innovare in questo momento. Investimenti iniziali pesanti, rischio d'impresa e una svolta passata attraverso un vero e proprio scontro generazionale. È difficile per i padri in alcuni momenti investire e rimettere in discussione tutto quello fatto negli anni precedenti. L'azienda Artistica Lampadari nasce nel 1970 e quindi diventa più difficile fare delle scelte. E allora con i giovani che ci sono in azienda, con i figli, si è pensato e si è detto e si è deciso di procedere con questo nuovo progetto e di conseguenza cambiare totalmente la strategia di vendita e di marketing per quanto riguarda la vendita, appunto. Un percorso che nasce dunque più dall'istinto di sopravvivenza che dalla coscienza ambientale, con un lieto fine professionale e un piccolo ecotrionfo. E poi siamo andati a vedere cosa stanno facendo nell'ambito del Salone del Mobile quelli dello Zona Tortona Design, ovvero un gruppo attivo da 8 anni, e ci ha spiegato tutto Luca Foisar, director della società che organizza Zona Tortona. Quest'anno abbiamo soprattutto lanciato il tema della sostenibilità degli eventi come primo punto da mettere all'ordine del giorno, verificando le possibilità di quali azioni fosse possibile fare. E uno dei primi argomenti è stato quello della mobilità, per cui abbiamo individuato questo tema e in collaborazione anche col Comune e l'ATM, in particolare l'assessorato ai trasporti, alla mobilità e all'ambiente, abbiamo collaborato per potenziare il trasporto pubblico, quindi una campagna anche per stimolare i nostri visitatori a usare il mezzo pubblico. Abbiamo individuato la circolare 94, l'abbiamo trasformata attraverso nella Circle Line of Design, individuando una serie di fermate che portano ad altrettanti percorsi pedonali di visita al design internazionale che espone a Milano in questi giorni, e poi la chiusura del traffico automobilistico in zona Tortona dalle 18 alle 24 tutti i giorni. Ma sicuramente all'interno della cultura del progetto, il design è proprio il paradigma, la sostenibilità ha sempre fatto la sua. Ora se ne parla di più, ma il pensiero di ridurre all'interno di una progettazione di un prodotto l'utilizzo delle risorse, lo spreco delle risorse, ottimizzare l'utilizzo dei materiali, scegliere i materiali qualitativamente più idonei è sempre stata una prerogativa. Oggi si sta estendendo, lo potremmo vedere in molti prodotti e produzioni delle aziende, un'accentuazione di questo fenomeno soprattutto rivolto alla tutela ambientale, quindi utilizzo di risorse rinnovabili o riciclabili, alla diminuzione dell'utilizzo di materie prime, quindi alla ottimizzazione delle performance di un prodotto. Ora si sta spostando anche sui servizi questa attenzione, quindi anche i servizi consumano risorse e producono CO2, quindi tutta la progettazione tende a ottimizzare al massimo questi risultati, cioè in termini di riduzione di risorse e quindi di riduzione di CO2, di emissioni di CO2 e di ottimizzazione dei risultati in questa direzione. Quindi l'avremo sia nei prodotti che nei servizi quest'anno. In chiusura vi segnaliamo i vincitori del Goldman Prize, cioè quello che per gli ambientalisti vale quanto un Nobel. Il vincitore per l'Africa è Marco Na Esangui, che si è impegnato per contrastare il progetto di una compagnia di Stato cinese di avviare una miniera di minerali ferrosi in una foresta pluviale del Gabon, nell'Africa occidentale. Na, costretto su una sedia a rotelle a causa di una poliomielite, ha ricevuto molte minacce, è stato arrestato e cacciato di casa. La sua campagna però ha contribuito a rivedere il progetto, che è attualmente bloccato. È tutto. Vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it e che potete ascoltarci andando sul sito di Radio 24. Buona giornata da Cristina Carpinelli.